ogni giorno qui da me vedo cose di ogni tipo. C'è persino quello che viene preso in fama un amico. Penso mi fa schifo zio, erano cresciuti insieme. Visti tempi sempre più frequenti sono queste scene. Non sai di chi fidarti, tutti furbi come iene. Non ti fidare di nessuno fra che ti conviene. Ascolta bene, porto rime dalla lanterna al Colosseo. Metto in mostra la mia voce come i quadri in un museo. Non vado al liceo, per strada imparo più cose. Distingo droghe schifose, non mi faccio la tua dose. Non voglio finire come quel ragazzo morto in casa a 20 anni per un'overdose. Zio, l'esperienza è l'insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. Fra, un paragone impossibile. Risentilo due volte, dopo capirai che avevo ragione. Fino a quando c'ho le rime da sputare, fino a quando c'ho un motivo per andare o andarsene a male. Ho ancora un'altra testa calda da domesticare, come 1001 stronzi pronti per farsi male. Fino a quando c'ho le rime da sputare, fino a quando c'ho un motivo per andare o andarsene a male. Ho ancora un'altra testa calda da domesticare, come 1001 stronzi pronti per farsi male. Nude, ho gli occhi di chi vede senza luce. Mangio e sputo rime crude, cucio decibel di voce. A tappetone sulle note, un buco nella rete, a mani giunte senza fede, avanti senza mete. Resistete ma non ci giurate. Avete quattro stronzi che vi seguono e non sanno dove andate. Dove scappate quando si fa brutto. Tutto dritto fuori dalle palle del mio gruppo, restate all'asciutto. Non ci credo e non mi fido, mica mollo. Fuori controllo nella folla a rotta di collo. Allunga casse di peroni e siamo amici. Stappo due bottiglie che mi leccano le cicatrici. Ve ne andate con le crisi e un tarlo nella testa. State al centro della pista, un passo dalla ressa. Dalla nostra c'è un plotone spacca cassa. Ogni member con la testa nella guerra s'allinea sull'asse. Fino a quando c'ho le rime da sputare, fino a quando c'ho un motivo per andare o andarsene a male. Ho ancora un'altra testa calda da domesticare, come 1001 stronzi pronti per farsi male. Fino a quando c'ho le rime da sputare, fino a quando c'ho un motivo per andare o andarsene a male. Ho ancora un'altra testa calda da domesticare, come 1001 stronzi pronti per farsi sono male. La voce che racconta quanto è pazza questa via. Suona atroce, se ti affronta spazza la tua testa via. Così sia, sto coi member come Franz, Doberman come Aleman. Col mio clan spingo rap al quinto dan. Pochi fan ma sinceri come i testi che io scrivo. Stimo onesti, stilo acesti, tu detesti come vivo. Recidivo sulla traccia, spazzatura è dura e pazza. Sta città si oscura e tratta, bamba pura che si smazza e minaccia. Nell'aria c'è una pallida atmosfera. Su ste strade per la fame e i soldi la gente ci sclera. Niente come era e niente come sembra. Qui le vie sono gelate come un ferro sulla tempia. L'ansia mi tormenta, stravolge i miei pensieri. La mia mente e la mia gente attenta si sconvolge, odia la gente. Sedicesima imminente, potente bomba carta. Fumo fogli con il sangue, vaffanculo a chi parla. Sì. Fino a quando c'ho le rime da sputare, fino a quando c'ho un motivo per andare o andarsene a male. Ho ancora un'altra testa calda da domesticare, come 1001 stronzi pronti per farsi male. Fino a quando c'ho le rime da sputare, fino a quando c'ho un motivo per andare o andarsene a male. Ho ancora un'altra testa calda da domesticare, come 1001 stronzi pronti per farsi male. Thank you.